Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Allo sbando, conta i morti quando si continua a scavare sotto le macerie. Una donna di 70 anni è la prima vittima italiana accertata. Camorra, processo Spartacus, oggi il verdetto della Cassazione. A Milano invece il processo Mills. Il monito di Napolitano sulle riforme: non si fanno a colpi di maggioranza, dice. Venduto dai genitori ad un pedofilo per pochi spiccioli, è successo a Bari. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Apriamo anche questa edizione di GR24 con le ultime che arrivano da Haiti a 3 giorni ormai dal terremoto che ha devastato soprattutto la capitale. Ci aggiorna qui in studio con me Massimo Di Scienza. Sì, buongiorno. Un paese, Haiti, la sua capitale, Port-au-Prince, nel caos. Il mondo che si mobilita per gli aiuti. Questa è la situazione. Partiamo dai numeri che sono quelli ufficiali delle Nazioni Unite. 3,5 milioni, di cui 2,8 milioni solo nella capitale, le persone, secondo l'ONU, colpite dal terremoto. Nel paese manca l'acqua, manca l'energia elettrica, scarseggiano i viveri e continuano ad aumentare i feriti che si rivolgono alle strutture mediche. I soccorsi si muovono con estrema difficoltà, la guida politico-amministrativa del paese è assolutamente allo sbando, di fatto non c'è più un governo. Nella capitale sempre più frequenti le scene di sciacallaggio, nella notte sono stati saccheggiati un centro aiuti dell'ONU e un magazzino del programma mondiale per l'alimentazione. Gli aiuti umanitari stanno entrando nel paese scortati dai militari. Nella capitale un'abitazione su 10 è stata totalmente distrutta, 300.000 al momento i senza tetto. Intorno alla capitale la percentuale sale al 50% delle case ridotte in macerie. L'ONU al momento non ha stilato un bilancio delle vittime, la Croce Rossa ha parlato di almeno 50.000 morti, il presidente haitiano Preval ha reso noto che 7.000 corpi sono stati interrati in una fossa comune. Gli aiuti internazionali, sempre secondo l'ONU, hanno superato quota 268 milioni di dollari. La situazione a Port-au-Prince è ovviamente sempre più drammatica. Pochi minuti fa abbiamo raggiunto al telefono l'inviato del Sole 24 Ore, Claudio Gatti, che ci ha raccontato le sue prime ore ad Haiti. Le strade che portavano al centro storico della città, quello in cui chi ha subito i maggiori danni, erano completamente bloccate, era impossibile arrivare. Io ero un convoglio di altri giornalisti, siamo poi finiti ospiti di un missionario americano di origine haitiana che ci ha ospitato nella sua casa. Abbiamo dormito per terra in una casa in una zona vicino all'aeroporto, che è una sorta di favela, di un bill poverissima, con tutti i muri di blocchi di mattoni di cemento crollati. La notte è stata rumorosissima, dal rumore dei jet che passavano ogni ora o due, perché siamo vicini al porto che evidentemente ancora è stato riaperto, ed è operativo, gli ululati cupi dei cani, e soprattutto la cosa che più mi ha colpito, i cori di alleluia della popolazione qui intorno alla casa del missionario, che per ore e ore con una nenia ritmica hanno cantato, a volte più fiocchi, a volte più forte, accompagnati dal battito delle mani ritmato. Era chiaramente un modo per esorcizzare la morte che circonda qui intorno. Fin qui dunque la fotografia che Claudio Gatti, inviato del Sole 24 Ore, ci ha inviato da Port-au-Prince proprio qualche minuto fa. La situazione degli italiani che mancano all'appello. Ci colleghiamo in diretta con la sede del Ministero degli Esteri a Roma, la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Innanzitutto la notizia purtroppo del primo nome della vittima italiana, si chiama Giuliola Martino, aveva 70 anni, nata a Port-au-Prince da genitori italiani, non aveva lasciato Haiti nemmeno dopo la morte del marito, è deceduta in ospedale per le ferite riportate nel crollo della sua casa. Una notizia rivelata da Agente d'Italia, il quotidiano di informazione diretto da Mimmo Porpiglia, già console onorario di Haiti in Italia, che si dice certo del decesso della donna, che è tra l'altro una sua parente. La notizia però, c'è da dire, che non viene ancora confermata ufficialmente dalla Farnesina. Ci sono, dicono i funzionari dell'unità di crisi, testimonianze dirette della morte della signora, ma che vanno verificate. Intanto notizia proprio di questi istanti: sale il numero degli italiani rintracciati, sono più di 150, stanno bene, sono oltre 40 quelli che mancano all'appello. All'unità di crisi della Farnesina si lavora freneticamente 24 ore su 24 per cercare di rintracciare questi 40 italiani. Un team italiano dell'unità di crisi è sul posto e sta controllando anche in queste ore se negli alberghi crollati, in particolare il Montanal Christopher, ci possa essere la presenza di italiani, così come negli ospedali e negli obitori. Si cerca anche casa per casa. Della Farnesina per ora è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Prima di restituire la linea, una notizia appena arrivata in redazione che dà anche un po' il quadro dell'eccezionalità del momento, visti i rapporti in corso tra i due paesi. Il governo cubano ha accettato di aprire il proprio spazio aereo agli Stati Uniti per evacuare dalla base di Guantanamo le vittime del sisma che ha colpito l'isola. L'ha annunciato proprio pochi istanti fa la Casa Bianca. Piera Ceci. E noi chiudiamo qui questa lunga pagina dedicata al terremoto di Haiti. Naturalmente continueremo ad aggiornarvi per tutto il corso della giornata. Andiamo ora invece alla pagina giudiziaria. Atteso oggi il verdetto della Cassazione al processo Spartacus, il principale procedimento giudiziario contro il clan dei Casalesi. Siamo alle ultime battute prima del verdetto definitivo per i boss dei Casalesi. Davanti alla prima sezione penale della Corte di Cassazione, 24 imputati del maxi processo Spartacus. La Suprema Corte è chiamata ad esprimersi sui ricorsi presentati contro la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli il 19 giugno scorso, con la quale vennero inflitti 16 ergastoli. Dopo le ultime conclusioni difensive, la Camera di Consiglio potrebbe riunirsi oggi ed esprimersi in poche ore, ma non è escluso che serva più tempo e dunque un'altra udienza da confermare per il 25 gennaio prossimo. Spartacus è il principale procedimento giudiziario contro boss e luogotenenti della Camorra. Tra i condannati al massimo della pena, i capi storici del sodalizio casertano: Francesco Schiavone, detto Sandokan, Francesco Bidognetti, più noto come Cicciotto e Mezzanotte, e i due superlatitanti Michele Zagaria e Antonio Iovine. Al centro del processo numerosi omicidi avvenuti tra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90, scatenati da conflitti interni alla Cosca, una delle poche ad aver intrecciato alleanze anche con la mafia. Laura Vigiano, GR24, Sole 24 Ore, Napoli. A Milano invece il processo Mills, che vede imputato anche il premier Silvio Berlusconi. Raffaella Calandra dal Palazzo di Giustizia. Eccezioni respinte, quindi ufficialmente aperto il dibattimento del processo Mills a carico di Silvio Berlusconi. Dopo 3 ore di Camera di Consiglio, poco fa i nuovi giudici della 10ª sezione penale hanno dichiarato inammissibili le richieste sollevate dalla difesa del premier, secondo cui dovevano essere considerati inutilizzabili gli atti già compiuti nel processo prima della separazione in virtù del lodo Alfano delle posizioni dei due ex coimputati, David Mills e Berlusconi appunto. Respinta anche l'eccezione sulla contestazione supplettiva, quindi il processo ora può di fatto entrare nel vivo, ripartendo non da capo ma considerando quanto era stato già fatto nel processo a carico dell'avvocato inglese. Ora però in questi istanti i giudici sono di nuovo tornate in Camera di Consiglio per decidere se aspettare o meno la decisione della Cassazione, che a sezioni unite il 25 febbraio pronuncerà il verdetto definitivo per l'ex coimputato Mills, già condannato in primo e secondo grado per corruzione in atti giudiziari. Ed è tutto. Grazie Raffaella Calandra. Craxi, parliamo invece ora di Craxi. Come ricordarlo a 10 anni dalla morte? È il tema del nostro sondaggio di oggi. È morto da latitante o da esiliato? Grande statista o simbolo della corruzione? La figura di Craxi, a 10 anni dalla sua scomparsa, divide ancora gli italiani. Per il direttore del TG1, Augusto Minzolini, Craxi fu uno statista mandato alla ghigliottina nell'era di Tangentopoli. Una lettura storica che abbiamo sottoposto ai nostri ascoltatori nel sondaggio di oggi. Ebbene, il 77% di voi non si trova d'accordo con questa analisi. Chi invece difende la figura di Craxi è un altro socialista dell'epoca, Gianni De Michelis. Non c'è il minimo dubbio, a prescindere dalle valutazioni dei singoli episodi, che la ragione principale della tempesta giudiziaria che si abbatté su Craxi e sui socialisti fu una ragione politica, e appunto la politica andrebbe risolta in sede politica e non in sede giudiziaria. Bianco o Nero torna lunedì mattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed ora le parole del presidente Napolitano sulle riforme, non solo. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, partiamo proprio dal tema delle riforme, un argomento caro al capo dello Stato e che Napolitano ha trattato più volte, da ultimo nel messaggio del 31 dicembre scorso. Il Presidente della Repubblica ha auspicato riforme condivise, c'è la necessità di procedere in tal senso, ha spiegato Napolitano, per interventi di lungo periodo e fondamentali per il Mezzogiorno. Da qui il suo appello alle forze politiche e sociali. Ascoltiamo Napolitano. Faccio appello alla consapevolezza che non dovrebbe ormai mancare tra le forze politiche e sociali dell'assoluta necessità di lavorare e di riformare anche per l'università in un'ottica di lungo periodo e non sulla base di impostazioni contingenti, asfittiche, di corto respiro, cui corrispondano conflittualità deleterie. Citando Aldo Moro, il capo dello Stato si è augurato che i principi dominanti della nostra civiltà e gli indirizzi supremi della nostra futura legislazione siano sanciti in norme costituzionali affinché siano sottratti all'effimero gioco di semplici maggioranze parlamentari. Ma l'appello lanciato dal capo dello Stato riguarda anche il mondo accademico. L'Università di Bari, ha detto in particolare Napolitano, ha servito e può ancora meglio servire sviluppando le sue diverse vocazioni umanistiche e scientifiche. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Siamo invece alla pagina economica. L'inflazione del 2009 è stata pari allo 0,8%, il dato più basso degli ultimi 50 anni. L'Istat ha infatti confermato i dati già anticipati nei giorni scorsi. A dicembre i prezzi sono aumentati dello 0,2% rispetto a novembre e dell'1% rispetto a dicembre 2008. Nell'ultimo mese dell'anno sono volati i prezzi dei biglietti dei treni e delle assicurazioni. Questi invece sono i dati del mercato dell'auto, che nel 2009 è andato giù in Europa e ha chiuso con una flessione dell'1,6% rispetto al 2008, con quasi 15 milioni di nuove immatricolazioni. Secondo i dati dell'Associazione dei Costruttori Europei, l'ACEA, a dicembre però le vendite di auto sono cresciute del 16%. In Italia il mercato ha chiuso l'anno con un calo dello 0,2% e il mese di dicembre con un progresso del 16,7%. Il gruppo Fiat ha chiuso l'anno con un aumento di immatricolazioni del 6,3%, con una quota di mercato dell'8,7% rispetto all'8% del 2008. Questa invece è una buona notizia. Scattano i ribassi dei carburanti dopo gli aumenti delle ultime settimane, che avevano portato la verde ad un passo dalla soglia di 1,37 euro il gasolio sopra 1,2. La riduzione riguarda per ora Esso e Shell, che hanno ribassato di un centesimo al litro sia la verde che il gasolio. Arriva a Roma la protesta dei dipendenti dell'Alcoa di Porto Vesme in Sardegna, per i quali la multinazionale americana dell'alluminio ha avviato le procedure di cassa integrazione. Questa mattina i lavoratori hanno organizzato un sit-in sotto il Ministero dello Sviluppo Economico ed uno di fronte all'ambasciata americana. Con loro anche il presidente della regione Sardegna, Cappellacci, che ha chiesto all'Alcoa una decisione chiara sul futuro dello stabilimento sardo. Sentiamolo. Sono state messe sul tavolo tutte le condizioni perché l'Alcoa possa continuare a operare in termini concorrenziali. La nostra presenza qui oggi all'ambasciata è una presenza che vuole in qualche modo sensibilizzare anche le autorità americane, governative americane, perché venga l'Alcoa sollecitata a prendere una decisione finale. Dica una volta per tutte, in modo chiaro, inequivoco e definitivo, che cosa vuol fare, se intende restare in Italia oppure no. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di cinema. Un vincitore ha annunciato La guerra per il maggiore incasso fra i 4 film in uscita questo fine settimana. Oltre ad Avatar, che per occupare quasi 1000 schermi ha ritardato l'uscita in Italia dei cinepanettoni, c'è finalmente il film che aveva conquistato i critici alla scorsa mostra di Venezia. Stilista di successo straordinario, fotografo apprezzato, e quando ha deciso di esordire come regista in tanti hanno pensato: ma chi glielo fa fare? E un po' se l'è chiesto anche lui. Why does anyone need to see a Tom Ford film? Who cares? Who cares? Mi chiedevo a chi importa di vedere un film di Tom Ford, confessa e poi spiega. Sentivo semplicemente il bisogno di farlo. Pensavo che questa storia fosse quella giusta. E A Single Man, tratto dal romanzo di Christopher Isherwood, ha conquistato tutti a Venezia. Anche chi temeva che potesse essere un debutto inutile, chi pensava di trovarsi davanti a un colossale videoclip molto fashion, chi paventava, vista la trama, un tripudio di retorica gay. Invece, come sottolinea Colin Firth, è semplicemente un film, un bel film d'amore. Why? Non c'è una differenza. There's no difference. It's love is love, you know? This was a love story, punto. E ora Tom Ford non ha più dubbi sulla sua scelta di fare il regista, anche se prima, confessa, aveva una grande paura. I was terrified, believe it or not, about having to yell cut. Il momento di chiudere una scena e urlare cut. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato di una Haiti allo sbando che conta i morti quando si continua a scavare sotto le macerie. Una donna di 70 anni, la prima vittima italiana accertata. Abbiamo poi parlato del processo Spartacus, oggi atteso il verdetto della Cassazione. Il monito di Napolitano, abbiamo sentito le parole del Presidente della Repubblica sulle riforme, non si fanno a colpi di maggioranza. E poi ancora le notizie economiche con l'Istat: nel 2009 inflazione a più 0,8%, è il tasso più basso degli ultimi 50 anni. Ma ripartiamo ora da Haiti, perché aumentano le preoccupazioni per gli italiani. Alessandra Schepisi, quali novità? Sì, le ultime notizie che arrivano da Haiti parlano di 5 o 6 italiani per la cui sorte si nutre molta preoccupazione. A rivelarlo sono fonti dei soccorritori sul posto dopo le prime ricerche effettuate ieri negli alberghi e negli ospedali. È una notizia ovviamente da verificare, mentre è una notizia confermata ufficialmente quella dei 40 italiani presenti da Haiti che mancano all'appello e dei 150 connazionali invece rintracciati e che stanno bene. Dalla Farnesina vi restituisco la linea. Grazie Alessandra Schepisi. Naturalmente richiedici la linea se ci saranno ulteriori aggiornamenti. Domenica la visita del Papa alla Sinagoga di Roma, un avvenimento importante ma che ha suscitato anche polemiche all'interno della comunità ebraica dopo l'annuncio della prossima beatificazione di Pio XII e il suo controverso ruolo durante la persecuzione nazista. Katia Caramelli ne ha parlato con il rabbino capo di Roma, Riccardo Disegni, che difende invece la sua scelta di invitare il pontefice. C'era una parte, non soltanto della comunità ebraica, c'è stata una grande discussione in tutto il mondo e c'è stata una riflessione. Lei però ha deciso di andare avanti. Perché bisogna in questo momento di una storia complessa mettere in evidenza la buona disponibilità a risolvere i problemi senza rinunciare ai principi. Si parlerà durante questa visita del controverso tema della beatificazione di Pio XII? Bisognerà vedere se e in che modo, sì. Ecco, ma sono servite le precisazioni dei giorni scorsi del portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, che comunque ha detto questa beatificazione riguarda l'aspetto religioso della vita di Pio XII, non il suo ruolo storico. La precisazione conteneva vari punti, di cui non soltanto quello della distinzione. I punti riguardavano l'attenzione alla sensibilità ebraica, il fatto che ci vorrà tempo e così via. I punti quindi sono diversi in quella precisazione. È stato colto come segno di attenzione e non come di muro eretto in opposizione, e quindi questo ha in qualche modo contribuito ad addolcire un clima teso. Questa è una visita che deve segnare prima di tutto la volontà di proseguire per una strada che non è una strada liscia in discesa, è una strada piena di problemi, ma comunque l'importante è avere la buona volontà. Lei che cosa si aspetta? Mi aspetto una disponibilità e anche una buona reazione emotiva intorno a quanto avverrà. La comunità ebraica guarda con molta attenzione a questo evento, che considera necessario. Quale può essere il terreno comune per andare avanti? L'attenzione ai problemi della dignità dell'uomo, dell'esigenza di giustizia nel mondo. Il rabbino capo di Roma, Riccardo Disegni, difende dunque la sua scelta di non annullare la visita del Papa alla Sinagoga di Roma. Non ci sarà però, come dicevamo, una parte della comunità ebraica e non ci sarà il presidente dell'Assemblea Rabbinica Italiana, Giuseppe Laras. Sentiamolo ancora al microfono di Katia Caramelli. A ridosso di questo evento c'è stata quella dichiarazione, secondo me in un momento inopportuno, del Papa circa la santificazione di Pio XII, con la sottolineatura in particolare del possesso delle virtù eroiche. Sulla vicenda c'è stata la precisazione di padre Federico Lombardi, che non ha chiarito niente, ha ribadito semplicemente quello che aveva detto il Papa, e poi anche quella distinzione, il piano storico, il piano religioso, mi sembra inaccettabile. Non c'è stata assolutamente nessuna precisazione rassicurante. Si tenga presente che l'ebraismo romano, ma l'ebraismo in generale, quindi, ha sofferto molto dalla persecuzione, e la figura di Pio XII è una figura discussa. Quindi secondo lei la visita andava rinviata? No, la visita non poteva essere rinviata perché non si poteva chiudere la porta in faccia al Papa poco prima. Bisognava chiedere qualche cosa di più preciso, di più rassicurante. Nell'ultimo anno ci sono stati tanti, diciamo così, incidenti diplomatici. Io sono stato uno dei protagonisti del dialogo. E ci sono stati diversi momenti di rottura, di crisi, che hanno rallentato il processo del dialogo stesso. Quindi è inutile che stia a ripetere Loremus, sì, Williamson, e quindi abbiamo dovuto riniziare a riallacciare i rapporti, a ridare un po' di vigore, un po' di fiducia alle persone che da entrambe le parti si erano impegnate e si impegnano e che avevano ricevuto un senso di delusione e di indebolimento da queste iniziative. E mi riferisco anche a molti della comunità cattolica, intendiamoci. Questo evento non aiuta. A 5 anni dal caso Buttiglione, un nuovo aspirante commissario europeo rischia la bocciatura all'Europarlamento. Sentiamo perché nel servizio. Sta diventando un caso diplomatico a Bruxelles la nomina della candidata al posto di commissaria europea agli aiuti umanitari, la bulgara Rumiana Jeleva. Lei Jeleva, sulla graticola per un caso di conflitto di interessi, sta facendo litigare un po' tutti dentro e fuori le istituzioni comunitarie. Prima però i fatti. L'aspirante commissaria bulgara è a tutti gli effetti l'anello debole del secondo esecutivo Barroso, accusata da settimane per il suo conflitto di interessi a causa di una sua passata partecipazione in una società di consulenza specializzata nella gestione dei fondi comunitari e nel mirino pure per i sospetti legami del marito con gruppi economici vicini alla criminalità, la Jeleva ha deluso. Non solo ha dimostrato scarsa conoscenza del portafoglio assegnatole, ma ha spiazzato tutti con la sua dichiarazione dei redditi zero per il 2009, nessuno stipendio o proprietà. Davanti al rischio di un nuovo caso Buttiglione, questa volta non per questioni di opinione ma per manifesta incompetenza, gli schieramenti all'Europarlamento si sono nuovamente divisi. Il centro-sinistra ha attaccato la Jeleva minacciando una bocciatura della commissione, i popolari di centrodestra invece hanno attaccato il candidato socialista slovacco Šefčovič per le sue passate dichiarazioni anti-rom. Da Sofia il premier bulgaro Borisov ha ribadito, pur con qualche esitazione, l'appoggio alla Jeleva. Sergio Nava, GR24, il Sole 24 Ore. Questa invece è cronaca italiana e davvero della peggiore. Arriva da Bari. Due le vittime accertate, ma i minorenni violentati potrebbero essere molto di più. La storia viene da un paese in provincia di Bari. Il presunto orco, 55 anni, bracciante agricolo, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. A finire in manette anche i genitori di una delle vittime, appena 12 anni, che avrebbero acconsentito in cambio di 5-10 euro che il proprio figlio subisse delle violenze. Nel paese tutti sapevano, ma nessuno parlava. La denuncia dei servizi sociali ha rotto il muro di omertà. La squadra mobile di Bari ha arrestato dunque anche i genitori. Nella casa in pieno centro del paese sarebbero avvenute le violenze. Gianni Longo, GR24, Sole 24 Ore, Bari. Produciamo sicurezza, il titolo di una mostra voluta da Confindustria e ideata dal MUBAL, Museo dei Bambini di Milano. Si rivolge infatti ai bambini dai 5 agli 11 anni, in particolare agli alunni delle scuole primarie della provincia di Milano. È itinerante e da Milano si trasferirà poi a Roma e a Napoli. Sami Gattegno, presidente del Comitato Tecnico per la Sicurezza di Confindustria, al microfono di Adriana Fracchia. Quando la Presidente Marcegaglia mi ha chiesto appunto di avere questa delega a livello di Comitato di Presidenza, esclusiva sulla sicurezza sul lavoro, abbiamo fatto una bella analisi per capire esattamente le ragioni di questi incidenti, anche con i dati INAIL, e la cosa principale che è stata riscontrata è che è un fatto di cultura. Ovviamente ci vogliono anche, come dire, gli strumenti, i mezzi, eccetera, ma molto dipende dalla cultura della sicurezza, cosa che purtroppo non sempre avviene. Allora siamo partiti con due iniziative: una, formare gli imprenditori; la seconda cosa, abbiamo detto, formiamo i bambini che sono molto ricettivi, perciò le scolaresche, ma anche i figli dei nostri dipendenti. Io credo che quello che dobbiamo far capire al mondo politico in particolare, che non sono le sanzioni che creano queste cose, ma proprio la cultura. Allora ecco, la formazione a tutti. Siamo allo sport. Per lo sci, lo statunitense Bode Miller è al comando dopo la prova di discesa della super combinata di Wengen, valida per la Coppa del Mondo. Migliore degli azzurri l'alto atesino Dominic Paris, terzo a 86 centesimi di distacco da Miller. Quarto un altro azzurro, Stefan Tanei. alle 13.30 la prova di slalom. Formula 1, sto benissimo, il recupero è stato molto buono, sono molto molto motivato. Ormai alle spalle l'incidente del Gran Premio d'Ungheria, Felipe Massa assicura da Madonna di Campiglio di non avere mai pensato al ritiro e di essere pronto per tornare a lottare per il mondiale, che lo vedrà opposto al suo amico ed ex compagno di squadra Michael Schumacher. Su questo Massa ha detto che sarà strano vedere la prossima stagione Schumacher correre per un'altra squadra, ma si è detto anche felice di dargli il bentornato in Formula 1. In chiusura il calcio, la vittoria sul Napoli, Buffon che torna, la Coppa Italia ha portato un po' di sole sulla Juventus, difficile però dire se sia una schiarita definitiva. La vittoria l'ha ritrovata contro il Napoli, la fiducia la Juventus la sta lentamente ritrovando. Quel che è certo è che domenica a Verona contro il Chievo la vecchia signora ritroverà anche il suo numero uno. Sono pronto a tornare in campo, fa sapere Gigi Buffon dopo un mese di stop per l'intervento al menisco. Il Gigi nazionale riabbraccia così una squadra che ha dimostrato contro i partenopei di voler giocare anche per il proprio allenatore, quel Ferrara riconfermato dalla società proprio poche ore prima del fischio d'inizio della sfida di Coppa Italia. E nella serata dell'orgoglio bianconero di ritrovato ci sono anche un Del Piero e un Diego finalmente protagonisti. Inizio speriamo di una nuova era, no? Abbiamo giocato tutti noi molto bene, io faccio parte di questa squadra, no? Intanto si continua a scandagliare il mercato, saltato l'affare Lanzafame col Parma, sembra scaldarsi la pista che porta Hernan Crespo. Il genoano ex interista porterebbe gol e carisma a un attacco che paga gli infortuni di Iaquinta e Trezeguet e la crisi di Amauri. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. In questo GR24 abbiamo parlato di una Haiti allo sbando, davvero allo sbando, mentre conta i morti e mentre continua a scavare sotto le macerie. Una donna di 70 anni, la prima vittima italiana accertata. E poi abbiamo parlato di Camorra perché a Roma oggi è atteso il verdetto della Cassazione sul processo Spartacus, a Milano invece il processo Mills. Il monito di Napolitano, abbiamo sentito le parole del Presidente della Repubblica sulle riforme, non si fanno, ha detto, a colpi di maggioranza. E poi la brutta storia che arriva da Bari, dal barese venduto a 13 anni, pensate, dai genitori ad un pedofilo per pochi spiccioli. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in studio in regia Carmelo Lauricella. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.